E come annunciato, siamo in corrispondenza con un compagno a Barcellona. Pronto? Ciao, buongiorno a tutti e a tutte. Buongiorno a te. E abbiamo appunto anticipato già questa mattina che insomma sono stati giorni caldi questi per la città di Barcellona, in particolare per alcuni quartieri, dopo che c'è stato appunto lo sgombero di questo centro sociale autogestito storico. Sì, infatti all'inizio è stato questo sgombero di Cambies, che è un centro sociale autogestito che da 17 anni era un punto centrale nel quartiere di Sants. Poi c'è stata una risposta il primo giorno lì a Sants, ma dall'altro ieri, cioè il giorno dopo, le proteste si sono estese per tutta la città, per l'intera città, per praticamente tutti i quartieri. C'è stato qualcosa, sia gente che batte cioè che fa rumore per le finestre, sia hanno cortei spontanei, blocchi stradali, barricate, eccetera. Sì, abbiamo letto che i casserolazzi già hanno, come dire, hanno accompagnato le manifestazioni di strada, insomma, la gente dalle finestre partecipava. Sì, infatti, perché magari quando ci sono barricate con fuoco, questa immagine spettacolare potrebbe fare pensare che è soltanto una protesta dei giovani o comunque una protesta da un tipo di gente, però in realtà è stata una protesta molto, molto larga e ancora, cioè non bisogna non parlare in passato, perché sicuramente stasera si torna a scendere in piazza. E tanti tipi di gente, perché Cambies era un posto molto, molto simbolico per i movimenti, però anche per il quartiere. Era un posto molto rispettato, che tutto, cioè l'intero quartiere sentiva come un bene comune proprio. Senti, ma com'è nata questa cosa dello sgombero di Cambies? È un palazzo storico. Sì, è un palazzo storico che appartiene, la proprietà sia dal comune che sia dalle ferrovie, diciamo dalla metro, dalla ditta della metro. Dall'azienda di Barcellona. Municipale della metro, quindi. Sì, appunto. E quindi è stato assolutamente una decisione politica, perché è un quartiere pubblico ed è stato il comune che ha deciso di sgomberare dopo due processi che aveva perso. Cioè Cambies ha avuto durante la sua lunga storia due processi che cercavano di sgomberarlo, e vedendo che la strada giudiziale non gli è andata bene al comune, il comune ha deciso di sgomberarlo senza di più. E questo secondo me ha molto a vedere anche con la risposta, nel senso che non è un proprietario privato ma che è il quartiere, e quindi riguarda non soltanto Cambies, non soltanto i centri sociali, ma tutto il livello, cioè il modello di città, questo modello di città fatto per il turismo e non fatto per la gente che ci abita. Quindi tu dicevi, la protesta per Cambies si è subito allargata a tutta la città e quindi ha acquistato anche altri contenuti appunto di rivendicazione sociale, appunto rispetto a un modello sociale che si vuole appunto per chi vive quella città. Ci puoi dire quali sono i temi? Ci sono varie, però in realtà tutto gira intorno allo spazio pubblico, cioè a chi è il soggetto che ha diritto di sfruttare lo spazio pubblico. Come sapete, Barcellona è una città molto turistica, dove la pressione dei turisti fa che sia che i prezzi salgano, sia che tanti quartieri non siano più abitabili dalla gente che ci abita qui, ma che sta diventando praticamente un parco tematico, e quindi i processi sia di gentrificazione sia di turistificazione, cioè di far passare lo spazio pubblico soltanto come un posto dove si possano fare negozi, siano turistiche che altre, fa che sia una città molto bella per visitare un fine settimana, però molto dura per abitarsi. E questo non ha assolutamente nulla a vedere con la xenofobia, nel senso, non è che la gente di Barcellona sia contro gli stranieri nemmeno, ma che rivendica per se stessa anche la possibilità di abitare in questa città, che ormai è soltanto una grande azienda turistica. Senti, questo sgombero portato avanti dalle forze dell'ordine, insomma, con la gru, abbiamo letto, quindi uno sgombero molto violento anche. In che clima cittadino si è verificato? Cioè, qual è il... Sì, come sapete, non soltanto a Barcellona, ma nello Stato spagnolo, negli ultimi mesi e anni, sono vissuti degli episodi abbastanza caldi, nel senso c'è un livello di mobilitazione che è sempre più duro e sempre più, cioè uno scontro che è sempre più caro, nel senso che la classe politica spagnola ormai è assolutamente pazza e non ha nulla a vedere con la realtà, nulla a vedere con i cosiddetti rappresentati. Quindi questo si inserisce anche dentro questo clima. È un clima di, come sapete, di crisi sempre più forte, di giovani che non hanno il livello di disoccupazione allo Stato spagnolo e anche a Barcellona è praticamente al 50%. Quindi dentro questo contesto, se non abbiamo soldi, non abbiamo cioè, non abbiamo lavori che non siano super precari, se addirittura ci tolgono i beni comuni, quindi è normale che la gente si arrabbia e la gente risponde. Certo, senti, fra l'altro proprio stamattina la stampa italiana, il Manifesto, ha dato notizia delle dimissioni del capo dei Mossos de Squadra proprio a Barcellona, collegando sì. Questi due fenomeni, insomma questi due fatti, lo sgombero del Cambiès, dimissioni insomma di forze dell'ordine che erano molto sotto accusa per i metodi violenti. Sì, appunto, erano sotto accusa già prima, non è soltanto per Cambiès, ma un tot di attuazioni durissimi. E quando lunedì scorso addirittura i poliziotti hanno attaccato La Directa, che è un giornale di movimento dove si erano rifugiati alcuni dopo le durissime cariche, e questo è stato la goccia che non so come si dice questa espressione, cioè la goccia che ha fatto traboccare il vaso, si dice. Appunto, quindi è stato soltanto una goccia perché c'erano state tante prima, però siano per le anteriori manifestazioni che questi, ha fatto che Manel Prat, che è il direttore della polizia, si è dimesso. Sì, scusate, il mio italiano. No, il tuo italiano è ottimo, non ti preoccupare. E quindi tu stavi dicendo però che appunto queste proteste, che non sono più di barrio, di quartiere, ma sono cittadine, non sono finite? No, secondo me questa sera c'è un appuntamento che sarà magari più grande, e vediamo domani, venerdì, quando inizia il fine settimana. Perché tra l'altro il problema non è soltanto Cambiès. Settimana scorsa c'era stata una carica molto, molto forte contro un gruppo di abitanti di quartieri a San Andreu, in un altro quartiere di Barcellona, che volevano prendere una ex cooperativa, che è un palazzo industriale vuoto da tanti anni, che avevano presentato un progetto al comune di autogestione che inizialmente c'era stato accettato e poi il comune ha fatto indietro. Quindi settimana scorsa c'è stato il tentativo di occupare questo palazzo, la risposta dal comune è stata una carica dura, e quindi c'è tutto un clima di rivendicazioni dei beni comuni, degli spazi sociali, che ha a vedere anche con queste proteste. Oggi abbiamo avuto la notizia che questo altro palazzo, che si chiama L'Armonia, il comune ha accettato di fare una trattativa con i vicini e accetta, sembra, il progetto che hanno proposto loro. Quindi questo fatto di Cambiès si inserisce dentro una dinamica più larga, e questo che fa che la risposta sia molto larga e anche che sia molto condivisa, non soltanto per altri quartieri ma per tanta gente della città. Senti, abbiamo letto sul sito di Canvies che il sabato, insomma domani l'altro, sabato 31 maggio, sarà un'altra giornata importante di lotta, chiamata fin dalla mattina, si chiamano compagni e compagne per la ricostruzione del centro sociale, e poi il pomeriggio per una grande manifestazione da Piazza dell'Università. Sì, credo sarà molto, molto lunga, perché i giornali e le televisioni stanno con la sua solita campagna di criminalizzazione, però che secondo me non avrà successo. Oggi alla metro, quando venivo a lavorare, sentivo parlare gente che non ho mai visto in un centro sociale, che non aveva proprio l'immagine stereotipica dei compagni, e che parlava di Canvies, che parlava contro il comune. Credo sia un clima dove il consenso è tanto ampio, ed è così che si può spiegare anche tre giorni ormai di proteste così forti, perché non è un gruppetto isolato da solo, ma è un consenso molto, molto largo alla città. Senti, dalle immagini abbiamo visto, insomma, bruciare la gru che doveva abbattere Canvies, ma qual è lo stato fisico adesso del centro sociale? Questo non mi è chiaro. Praticamente non esiste più, è a metà, cioè hanno praticamente tirato a terra la metà. Canvies era una ex chiesa piccolina, e poi una aveva a fianco una casa piccolina, ed è soltanto la metà, cioè è disparuta la chiesa, la parte ex chiesa, restano soltanto due piani dove ci abitavano i compagni. E senti, nel comunicato dei compagni del centro sociale, insomma, leggiamo che l'unica cosa che sanno fare è distruggere e coprire di cemento. Ci sono progetti di speculazione in specifico sul quartiere di Sanz che hanno causato, insomma, lo sgombero del centro sociale? Sì, Sanz è uno dei quartieri più marginati in questo senso dal comune storicamente, dagli anni 50 praticamente non ci sono stati progetti urbanistici fatti per la gente che ci abita, ma per lì passano le ferrovie, lì ci sono tanti alberghi molto grandi fatti per i turisti che non ci abitano lì, non ci sono praticamente parchi, non ci sono spazi comuni, è un quartiere molto, molto combattente, con una lunga storia di lotta, però che ha tanto a vedere anche con le condizioni dove c'è vita. Cioè non è il quartiere della Barcellona trendy, della Barcellona che vuole vendere al mondo il comune, ma è un quartiere molto popolare che ha tanto bisogno di questi spazi. Il comune non ha detto cosa vuol fare lì, soltanto ha detto che vuole fare uno spazio transitabile, che è un po', cioè, come è uno scherzo, nel senso quello che c'è bisogno non soltanto a Sanz. Uno spazio transitabile significa una strada? Sì, appunto, non significa nulla, se significa qualcosa, significa un attacco, nel senso che non c'è bisogno di posti per transitare, ma per posti per essere in comune in questo quartiere e in tanti altri di Barcellona. Senti, non so se vuoi aggiungere qualcosa, altrimenti noi ti ringraziamo e ti chiameremo ancora presto per sapere, insomma, okay, come procedono le proteste di piazza. Ok, no, vi chiedo scusa per l'italiano, che tenterò di ricordare meglio per domani o altri giorni, e vi saluto a tutti. Ti ripeto, l'italiano è ottimo, grazie ancora. Grazie. Ciao. Grazie. Ciao. Cubana, tenéis una nacionalidad que no os favorece.